Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In questo giornale parleremo delle prime reazioni in regione dopo l'attentato a Trump, le soluzioni prospettate nelle valli del Natisone per i comuni fragili, dove manca personale, i temi dell'agricoltura nel Gemonese immersi alla festa della Trebbiatura e la consegna del premio Amidei a Gorizia a Giuseppe Tornatore. In apertura, come avete sentito dai titoli, l'attentato a Donald Trump e le reazioni di tre corregionali americane all'estero, ospiti in regione dell'ente friulano assistenza sociale e culturale degli immigrati di Pordenone. Ho letto la notizia stanotte dal telefonino e non sono più riuscita a dormire. È un fatto terribile per il nostro paese. Paola e Gilda, sorelle americane originarie di Prato Carnico, sono a Pordenone assieme alla nipote Giuliana, ospiti delle fasce per il tour in regione dedicato ai corregionali all'estero quando ricevono la notizia dell'attentato a Trump colpito durante un comizio in Pennsylvania. Il fatto ha scosso profondamente le tre donne di origini friulane. We heard from my mom that the shooting had occurred. Mia madre abita proprio vicino a Pittsburgh, dove c'è stato l'attentato. Mi ha informata subito, c'è stata anche una vittima innocente e credo che quanto accaduto ieri galvanizzerà ancora di più i supporter di Trump. One of the most important ideas of our country is freedom of speech. Libertà di parola è una cosa, violenza è un'altra. Che tu sia pro o contro Trump, la violenza è sempre inaccettabile. How do you feel today? Sad. Come si sente oggi? Triste. È triste per gli Stati Uniti d'America, è un esempio orribile per gli altri stati. Noi dovremmo essere un buon esempio, invece è l'esatto contrario. And we should be a good example and it's the opposite. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 29 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 29 gradi, a Udine e Pordenone 30, a Gorizia 31 gradi. In area montana Tolmezzo 26, Tarvisio 23 gradi, Forni di Sopra 25, Sappada 21, Piancavallo 20. In quota sul Monte Zoncolan 17, sul Monte Lussari 15 gradi, sulla costa a Grado e Lignano 29 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 29 gradi. Le previsioni dell'ARPA: nelle prossime ore su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso con possibile maggiore nuvolosità verso il Cadore e il Comelico, dove nel pomeriggio sarà possibile anche qualche isolato temporale. Temperatura nuovamente in aumento ma con meno afa dei giorni precedenti, venti a regime di brezza. Domani cielo in prevalenza sereno nel pomeriggio, sui settori montani più interni, specie verso il Cadore e il Comelico, sarà possibile anche qualche isolato temporale, venti a regime di brezza. L'indice Istat della fragilità dei comuni indica come tra i più fragili della regione alcuni di quelli delle valli del Natisone, in cui spicca il problema della carenza di personale nelle amministrazioni. Ne abbiamo parlato con Antonio Comugnaro, sindaco di San Leonardo e presidente della comunità montana Torre Natisone. La proposta che abbiamo avanzato già anche negli anni passati sia quella di aggregare gli uffici, però mantenendo le municipalità in questo territorio, e mi riferisco anche a comuni che sono con degli abitanti molto, molto bassi. Ritengo che portando vicino tutti gli uffici tecnici e di ragioneria in un unico punto, io penso che la cosa potrebbe dare una risposta a quelle che sono le difficoltà in questo momento dei comuni. Quali sono al momento le difficoltà pratiche di un comune che non ha personale? Ovviamente che le cose non vanno avanti, cioè non avendo personale il comune si ritrova ingessato e quindi a non svolgere quelle che sono le normali pratiche quotidiane, senza contare quelle che potrebbero essere i vari appalti, spendere i soldi che poi la regione magari dà la disponibilità per fare infrastrutture, per fare tantissime cose che servono ai cittadini di questi comuni. Purtroppo ci troviamo in grossissima difficoltà in quanto, per quanto riguarda anche gli uffici tecnici, abbiamo avuto un calo quasi totale dei dipendenti che un tempo davano dei servizi ai comuni e agli enti che ne facevano parte. San Leonardo, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri 17 soccorritori alpini operativi della stazione di Sappada si sono riuniti al rifugio Calvi per celebrare il 70esimo della loro stazione, che è stata tra le prime 26 stazioni italiane del soccorso alpino a nascere nel lontano 54. Per l'occasione, due esercitazioni messe in atto sulle pareti del Monte Chiadenis, con la calata della barella lungo due diversi punti e con tecniche differenti. Oggi nella chiesa di Sappada è programmata una messa in memoria di tutti i soccorritori della stazione scomparsi negli anni. Festa della Trebbiatura Gemona organizzata dalla Proloquo, alcuni agricoltori della zona. Al centro della festa i temi delle semine di cereali nel gemonese. Il grano, da sempre fonte di vita e sostentamento, in Friuli si coltiva dai tempi dell'Aquileia romana. Da quest'anno a Gemona si festeggia anche la festa della Trebbiatura. Un'iniziativa nata dall'idea di un gruppo di amici con la passione dell'agricoltura e che ha coinvolto tutte le 11 borgate di Gemona. Si torna a rivivere dunque la memoria di un momento cardine della vita contadina. Protagonista principale è la Trebbiatrice, che fa volgere gli sguardi giovani e meno giovani e dei tantissimi ospiti accorsi già in mattinata. La prima festa della Trebbiatura vuole essere luogo di incontro e condivisione, spazio dunque alle piccole aziende agricole, tra queste anche chi produce peperoncino. Il tutto è rigorosamente ecosostenibile, posate e bicchieri compostabili, i prodotti locali non sono a chilometro bensì quasi a metro zero. Il succo di mele offerto arriva dal meleto a fianco. La due giorni della prima edizione continuerà con le note dei Furlan Samanette, poi nel pomeriggio passeggiate alla scoperta dei sapori, laboratori per bambini sul tema dell'agricoltura, lotteria e musica. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, un premio importante perché dedicato alla parte più esaltante e più dolorosa della nascita di un film. Così il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha colto il premio Amidei per la sceneggiatura che gli è stato conferito ieri. Oggi invece a Gorizia ha incontrato il pubblico, lo abbiamo intervistato. I premi sono sempre belli, sono una gratificazione. Il premio Sergio Amidei è un speciale, mi ha fatto veramente un grande piacere riceverlo e sono grato all'associazione Sergio Amidei per avermelo attribuito, perché è un premio che intanto evoca uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema, due perché è un premio che parla della scrittura, che è la fase forse più esaltante ma anche più dolorosa, la fase della quale la gente conosce meno, sa meno. Sono veramente onorato di averlo ricevuto, sono contento per l'accoglienza, la simpatia. C'è qualche film al quale è più legato e c'è qualche film che magari rifarebbe in maniera diversa? Ma non c'è un film al quale sono più legato degli altri, in genere non so rispondere a queste domande. Se le rifacessi probabilmente farei sempre tutto diversamente, perché oltre a scorrere degli anni si cambia, quindi probabilmente Cinema Paradiso sarebbe meno naif, ma forse non avrebbe quella emozione che avevo in quel momento, perché in quel momento della mia vita sentivo di raccontare quella storia in quel modo lì. Oggi forse lo farei diversamente. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Albert Zotte di Gorizia, i bianconeri dell'Udinese, la prima uscita estiva. Ieri si sono imposti per 5-0 sul Bilje, formazione di seconda serie slovena, più avanti nella preparazione. La squadra di Rugnaez ha segnato al 21esimo con Cabasele, 4 minuti dopo il raddoppio con Lucca al 32esimo. Il Bilje ha tirato da quasi metà campo, ma Okoye non si è lasciato sorprendere. Al 9 Bonin ha firmato la terza rete, il quarto gol ed è stato di Barbaro, classe 2006. Al 90esimo calcio di rigore per i bianconeri, Ghessan ha trasformato per il 5-0 finale. La seconda giornata del 28esimo Alpi Orientali Rally Historic, gara valida per il campionato italiano Rally Autostoriche 2024, si terrà oggi a Cividale, includerà i due passaggi di Valle di Soffumbergo e Canebola Masarolis, che verranno percorsi per tre volte prima dell'arrivo finale previsto per le 16.40 a Cividale. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Per gli spettacoli Odissee, lo spettacolo della compagnia Anatema Teatro, che farà rivivere nell'interno della grotta gigante di Sgonì con le avventure dell'Ulisse di Omero, 5 le repliche previste dalle 14 alle 17. Era l'ultima notizia per questo GR, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Andrea Fontanotte e Carlo Morello. Da Maria Spezia, Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.